La versione di Oscar, Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, e questo lunedì 15 di giugno alle 16.32, ecco in questo secondo, 32 primi, siamo in diretta agli studi di Milano di Radio 24. Vado subito al punto della trasmissione e un primo commento ai risultati del secondo turno dei ballottaggi che ci sono stati ieri nei comuni italiani, non in quelli in Sicilia in cui si vota ancora oggi, ma insomma immagino che più o meno conosciate il risultato, un risultato un po' a sorpresa, soprattutto in città come Venezia, Arezzo e non solo. Prima di ripetere il bilancio dei maggiori centri in cui si è votato, vado subito alla domanda. Se avete voglia e tempo in diretta di intervenire all'800 24 0024 oppure di mandarci i vostri commenti con gli sms al 349 238 6666. La domanda che vi faccio è: avete l'impressione che questi esiti con, vedo un PD in difficoltà, dipendano solo dai cattivi candidati scelti? C'è un senso nazionale anche che arriva dopo una settimana nella quale obiettivamente le incertezze, le difficoltà del governo, per esempio sulla questione dei rifugiati a Milano, mentre la Francia e l'Austria chiudono le frontiere e dicono il problema se lo deve smazzare solo l'Italia, mentre salta anche la possibilità di una quota di ripartizione sia pur minoritaria con gli altri paesi europei, oppure le code delle regionali, il caso De Luca, il caso di Mafia Capitale. C'è anche un senso nazionale in tutto questo che arriva attraverso le scelte dei cittadini nel voto delle città andate al ballottaggio? Ecco, diteci se la vostra impressione è che ci sia, come traspare evidentemente dai giornali di oggi e dalla loro prima lettura nei pezzi scritti ieri sera, una difficoltà per il governo, oppure se voi pensiate che sia esclusivamente il voto locale, si interpreta solo in chiave locale e quindi è un caso di sbagliati candidati a Venezia, Arezzo e altrove, dove il PD non ha ottenuto la vittoria che si aspettava, e non ci sia anche un significato nazionale. Nel frattempo le nuove di giornata sono nuove sui diversi fronti aperti, purtroppo non troppo positive, perché l'audizione di Mario Draghi alla BCE, che era importante, Mario Draghi alla BCE, al Parlamento Europeo, scusatemi, che era importante per capire come sta evolvendo la faccenda greca, è un'audizione nella quale il presidente della BCE per la prima volta dice: se avviene l'uscita dell'euro, comunque noi abbiamo degli strumenti per fronteggiarla. Quindi c'è una missione chiara del fatto che questo può essere l'esito al 30 di giugno. Dal punto di vista della tensione con Francia e Austria, soprattutto con la Francia ha rincarato la dose oggi dicendo: il problema è italiano, qui non vengono i rifugiati, ve li rispediamo indietro. Quindi c'è un problema che diventa a questo punto veramente di politica europea per l'Italia, con i partner che non solo rifiutano la quota di ripartizione ma chiudono le frontiere, quindi Schengen unilateralmente non vale più, per così dire, e anche questo non è certo un segnale positivo. Detto questo, io vi riepilogo prima di chiedere ai nostri due ospiti il risultato. Sapete che a Venezia ha vinto il candidato del centrodestra, l'ex presidente di Confindustria Luigi Brugnaro e patrono anche della locale squadra di basket, che ha battuto il candidato che aveva vinto le primarie a Venezia, cioè il magistrato nonché senatore Casson, a sorpresa, perché Venezia ha una lunga tradizione di sinistra. Ancora più a sorpresa la sconfitta del PD ad Arezzo, Arezzo la città di Mariana Boschi, ministro della riforma, e qui il candidato del PD, tra l'altro è un candidato del PD acrista, quindi un cattolico di sinistra, quindi in teoria molto più vicino di Casson al marchio renziano, per così dire, del PD. E anche qui Matteo Bracciale, il candidato del PD, è stato battuto di poco al photo finish dallo sfidante Ghinelli del centrodestra. Altri risultati elettorali: a Matera anche ha perso il PD e torna al centrodestra, a Fermo, nelle Marche e a Nuoro non hanno vinto i candidati del PD ma hanno vinto candidati appoggiati da liste civiche. Il centrodestra ha conservato Rovigo in Veneto con il sindaco della Lega Nord e ha conservato Chieti. A Lecco invece è il PD che ha confermato il suo sindaco e anche a Macerata, il PD ha strappato al centrodestra Trani e Mantova. La novità è che ci sono anche dei sindaci grillini, per esempio c'è il primo sindaco del Movimento 5 Stelle in Piemonte a Venaria Reale e ha letteralmente stracciato al secondo turno il candidato del PD con più del doppio dei voti, un sindaco del Movimento 5 Stelle anche a quarto in Campania, a Porte Torres in Sardegna. Ecco, più o meno, ripeto, si vota in Sicilia anche oggi, ma questo è il risultato, con una tenuta del centrodestra che addirittura aumenta il numero dei capoluoghi con le vittorie registrate a Venezia e appunto ad Arezzo. Allora, iniziamo da il caso veneziano e iniziamo con il direttore del Gazzettino Roberto Papetti. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, direttore. Buon pomeriggio a voi, ciao Oscar. Allora, direttore, quando ci fu il risultato regionale veneto, tu quella sera in tutti i talk dicevi, perché c'era sorpresa per il risultato di Zaia che aveva strabattuto la Moretti, dicevi veramente noi abbiamo pubblicato nell'ultima settimana dei sondaggi sul Gazzettino in cui era evidente che finiva così. Questa volta era evidente che finiva con la vittoria di Brugnaro contro Casson in maniera altrettanto netta, oppure la sorpresa c'è? Non era così evidente, ma l'attesa andava in questa direzione, cioè nel senso che nella città c'era una voglia di cambiamento, oserei dire quasi istintiva, che andava tutta a favore di Brugnaro e soprattutto andava a sfavore di un partito democratico che questa voglia di cambiare, di cambiamento non ha saputo intercettarla. Questo non significa che il voto di Venezia abbia solo un significato locale, perché probabilmente il Partito Democratico di un anno fa, più in palla, più efficace, avrebbe saputo dare delle risposte diverse a una crisi che colpisce la città di Venezia e che non è solo l'effetto, anche quello c'è ovviamente dello scandalo Mose, ma anche quello di un'amministrazione comunale che ha un indebitamento pesantissimo e reduce da un commissariamento che ha significato lacrime e sangue per gli stipendi dei dipendenti comunali. Che è durato un anno. Un anno esatto. Quindi quello che è successo è questo. Chi conosce, vedo che molti oggi si ascrivono a se stessi Luigi Brugnaro, chi lo conosce sa che Luigi Brugnaro, innanzitutto Luigi Brugnaro, è già la definizione di moderato riferita a un imprenditore, un uomo vulcanico come lui, mi sembra perlomeno azzardata e impropria. Dopodiché certamente Brugnaro ha avuto il merito di riunire intorno a sé... Anche secondo me, per quel poco che può contare, ma conoscendolo, è un immoderato più che un moderato. Cioè non è, proprio... un immoderato per natura. Sì. Però certo ha avuto dal punto di vista politico la capacità di riunire intorno a sé un centro-sinistra sparpagliato, diviso, litigioso, dove... un centrodestra molto litigioso che più che una coalizione sembrava una pattuglia acrobatica e che a dire la verità non aveva alternative non aveva alternative, era, sembrava condannato per propria incapacità più esatto. che per a un'altra sconfitta. Ma è bastata una campagna elettorale, è vero, rutilante e anche costosa di un mese e mezzo per travolgere un sistema di consenso e di potere come quello del Partito Democratico che aveva governato negli ultimi 20 anni, in realtà negli ultimi 40 anni, perché solo c'è stata la piccola, ci fu solo la breve pausa di un sindaco democristiano a interrompere una continuità di sindaci. Assolutamente. Due domande per te. La prima, quando Brugnaro, che ha vinto, dice i primi contenti sono i renziani, lui ha sempre detto di essere un sostenitore di Renzi e che i primi del PD veneziano e forse anche veneto a esultare della sua vittoria, non quella di Casson, che ha tutt'altro segno politico, Brugnaro si candidò dicendo non posso far vincere i centri sociali. E quindi prima domanda, è vero o non è vero quello che dice Brugnaro, o semplicemente fa un po' adesso che ha vinto ovviamente ovviamente lo sbruffone dicendo i primi contenti sono i renziani. Secondo, quando dici che un anno fa il PD renziano appena arrivato, insomma più in palla, avrebbe avuto alternative, avrebbe avuto alternative nel senso che avrebbe fatto qualche altra scelta diversa, di che tipo? Che cosa ci si poteva aspettare dal PD renziano alternativo a Casson in grado di vincere la città? Ma allora, per quanto riguarda il rapporto con Renzi, Brugnaro ha giocato con efficacia questa carta negli ultimi giorni della campagna elettorale, dicendo proprio in un'intervista che ha fatto qua il Gazzettino che il sindaco per lui di riferimento ideale era appunto Matteo Renzi, quindi se doveva avere un punto di riferimento quello era, e questa carta se l'è un po' giocata. Se l'è giocata anche nei commenti post-elettorali, sapendo che una affermazione di questo genere avrebbe gettato in ulteriori difficoltà un centro-sinistra che ovviamente alla luce della sconfitta oggi è percorso da veleni, accuse e controaccuse. Se poi questo si tradurrà nell'inserimento di qualche personalità o di qualche personaggio vicino al Partito Democratico, in particolare a Renzi, nella giunta di Brugnaro, non è da escludere. Certamente credo che Brugnaro da questo punto di vista si muoverà con grande spregiudicatezza e devo dire in coerenza con quanto lui ha sempre detto, che lui non è né di destra né di sinistra, ma appunto è solo Luigi Brugnaro. Ma per quanto riguarda invece il discorso del Partito Democratico, io non credo che il problema fondamentale in questo caso sia la candidatura, o meglio, qualsiasi candidatura interna al Partito Democratico io credo che sarebbe stata destinata alla sconfitta. Perché continuità con quel sistema di potere. Perché c'era un'evidente continuità con il sistema di potere. Sì, il Partito Democratico sfilato nell'illusione che poiché a centrodestra non c'erano candidati spendibili e poiché Casson era il candidato più lontano da Renzi, più lontano dall'apparato locale e per di più un ex magistrato e quindi poteva intercettare una domanda di legalità che dopo lo scandalo Mose era particolarmente forte, ecco, questo potesse essere la quadratura del cerchio. Ripeto, ha sottovalutato una spinta, invece una domanda di cambiamento che era molto forte e che in questo senso un Partito Democratico di un anno fa, insomma quello delle elezioni europee con Renzi in forte crescita e con Renzi con una capacità appunto di interpretare una domanda di rinnovamento, forse sarebbe riuscito a cogliere me con più efficacia. Qual è per te il significato possibile, le conseguenze possibili nazionali del cappotto, per così dire, sommando il voto di Zaia in regione e questo di Brugnaro a Venezia, seppur molto diversi? Ma io credo che le conseguenze possano essere... Il Partito Democratico al suo interno non ha alternative. Certamente questo risultato elettorale ridà forza alla minoranza interna, però credo anche che l'unica possibilità che ha Matteo Renzi è di accelerare sul fronte delle riforme e del rinnovamento. Tu dicevi prima una cosa molto giusta, che il tema dei profughi in questo scontro elettorale io credo che abbia pesato parecchio e ha pesato in una duplice chiave: da un lato l'assenza oggettiva di una strategia da parte del nostro governo di affrontare questo tema, questa distribuzione un po' casuale sul territorio, che non a caso in Veneto ha trovato un fronte unito, anche i sindaci del PD hanno detto, e dall'altro una posizione di estrema debolezza dell'Italia nei confronti dei partner europei. Anche questo ha pesato molto e lo si è visto anche nei confronti tra i candidati di centrodestra e centrosinistra, dove c'erano i candidati del centro-sinistra, lo stesso Casson non è riuscito, per esempio, rispondendo a domande su questo tema, ad andare oltre un'affermazione del tipo Venezia ha già dato. Quindi, se, no, ma che era evidentemente la testimonianza di una difficoltà molto viva all'interno del... sì, credo anch'io. Intanto, allora, ringraziamo Roberto Papetti, torniamo tra dopo 60 secondi, abbiamo a questo punto poi per Arezzo il sindaco della Nazione e chiediamo anche a lui, ma ci sono anche i vostri telefonate in arrivo, quindi cominciamo dalle telefonate, intanto strada. La versione di Oscar. Allora, molti messaggi da Arezzo che dicono sorpresa mica tanto, a dirvi la verità, molti anche da Venezia e dal Veneto che dicono in effetti l'immigrazione, le difficoltà del governo hanno contato molto, alcuni che dicono Renzi svegliati, e qui ci sono dei elettori che iniziano a vedere delle linee di criticità che avanzano, altri che aggiungono PD partito delle clientele, Venezia non ne poteva più, Brugnaro però ha fatto la differenza perché il centrodestra non aveva candidati, quindi insomma un ventaglio d'opinione negli sms di provenienze e preferenze diverse, ma tutte che danno un apporto secondo me molto ragionevole, mi riconosco in pezzi di tutti questi ragionamenti. Sentiamo Stefano da Treviso, prego Stefano. Grazie Oscar. Prego. E buon pomeriggio a tutti. Ecco, io ascoltavo con molta attenzione la questa parte soprattutto del direttore, e da Veneto mi sento di dare una considerazione sulla valenza potenzialmente nazionale del segnale che deriva dal voto veneto. Cioè tu dici Zaia più Brugnaro, sì. Sì, ma non solo, direi. Ieri c'è stato un ballottaggio complessivo con un cappotto di 5-0 nei vari comuni veneti che sono andati al voto. Io credo che possa, da elettore che ha sempre seguito, possa essere veramente il segnale di una terra laboriosa che chiede delle risposte, sicuramente dal lato della sicurezza e immigrazione, delle politiche più chiare e incisive, ma non solo, direi il Renzi sveglia può essere anche legato a temi importanti come i costi standard, il patto di stabilità, certo. Cose che il governatore ha sempre posto in maniera molto chiara, distinguendo necessariamente un trattamento diverso tra i virtuosi e i non virtuosi. E che continua a sprecare e viene salvato. Però Stefano, ti faccio un'osservazione. Adesso ti devo salutare perché andiamo alle altre telefonate, perché il tempo passa. Capisci che però tra la scelta identitaria di un governatore, sia pur particolare come Zaia, ma leghista, e un esterno che fa vincere in mancanza dei candidati, c'è un'idea di centrodestra tutto da rivedere, che non è quello sulla guida leghista, perché si deve aprire a tutt'altro tipo di mondi e di ambiti, però questa è la mia opinione. Marco d'Arezzo, iniziamo, spostiamoci su Arezzo. Marco d'Arezzo, che dice? Ciao Oscar, buonasera. Io sono il peggio del peggio, che sono un 36enne dalle Miano di Ferro. A Arezzo è successo questo, sia sull'aspetto nazionale, cioè che è finita la favola del rinnovamento del pifferaio magico, che era così vergine, così nuovo, che era stato presidente della provincia di Firenze, due volte sindaco di Firenze, poi lui era il nuovo, che era in politica già da 20 anni, e ha vinto e è diventato. E qui Arezzo hanno pensato che il nuovo, quindi un ragazzetto come Matteo Bracciali, potesse essere comunque il Matteo aretino, e di fatto poi è andata come è andata, anche perché alle primarie ha stravinto grazie all'ausilio dei voti del centrodestra. Poi quando dopo il centrodestra alle elezioni si è ritrovato con un candidato come Alessandro Ghinelli, credibile, un bel candidato credibile, ha fatto un bel programma di destra, ovviamente, è ovvio che uno di centrodestra ha preferito votare quello di destra vero piuttosto che quello di destra. Posso dire, secondo te Marco, l'elettorato di sinistra non si è riconosciuto il candidato, quindi gli ha fatto mancare il consenso, questa è la tua chiave? È ovvio. Se apre i cancelli, io sono per un partito con dei cancelli, con dei confini delimitati. Chiarissimo. I cancelli sono per chi è la sinistra, e chi era a sinistra non ci si riconosce. Votare, anche perfetto. Perché ovviamente questa... campo libero, ognuno libero. Agli atti la tua tesi. Sentiamo il direttore della Nazione, che è per Francesco De Robertis, grazie direttore di Estra con noi, che tra l'altro, se non ricordo male, è di Arezzo. Sì, per caso sono di Arezzo. Per caso, però oggi è un caso a Roma, come che aiuta. Allora, guarda, la tua lettura. Ma io credo che ad Arezzo sia stata fatta un'operazione un po', come dire, arrogante, passami il termine, da parte dei vertici del PD. Nel senso che hanno battezzato questo candidato, perché poi le primarie sono figlie di un accordo che c'è stato prima. Insomma, è stato fatto, designato un candidato, di 30 anni, che non aveva di fatto fatto niente, poco niente, è stato detto alla, alla città: votatelo perché è giovane e renziano. E questa è stata un'operazione arrogante, perché alla fine poi perché io devo dare un voto a uno che non ha, in politica non ha mai fatto quindi, niente. Quindi diciamo, non sei molto lontano dall'opinione del nostro ascoltatore D'Alemiano. Ma no, no, no, no, no, più o meno è questa, cioè è stato messo un candidato chiedendo la fiducia solo sul nome di Renzi. In realtà poi di Renzi ce n'è solo uno, e lo stesso Matteo Renzi, quando si è candidato, a tutto quello che si è candidato, aveva comunque fatto qualcosa di significativo prima, perché si è candidato in provincia, era comunque stato segretario provinciale della Margherita, quindi non è che certo, era arrivato lì, è arrivato da sindaco, aveva fatto il presidente della provincia, si è candidato alle primarie, aveva già fatto il sindaco, insomma è arrivato lì con qualcosa in mano. Ma e secondo te c'è, Renzi è Renzi, insomma, c'è una valenza nazionale sommando Venezia, Arezzo? Ma la valenza nazionale è proprio questo, che non vale più, o almeno in quel caso non è valso e probabilmente non varrà da altre parti, la cambiale in bianco: è nuovo, è carino, si presenta bene in TV, è renziano, allora va bene. Mentre qualche tempo fa questa carta poteva essere sufficiente, ora non è più sufficiente. Tra l'altro hanno perso ad Arezzo con un candidato battibile, perché Ghinelli è un candidato che era stato esponente di una giunta passata che era stata anche inquisita, c'erano stati dei problemi, insomma, quindi niente da dire sul candidato, però non è che fosse un il meglio candidato del meglio, cioè proprio assolutamente inattaccabile. Ecco, poteva essere battuto e non è stato battuto. Domanda che riguarda la regione, perché insomma Claudio Borghi e la Lega alla regionale ha fatto un risultatone, per essere chiari, rispetto alla storia del centrodestra degli anni precedenti, e invece lì si concentra il problema Verdini in pezzi e così via, eccetera eccetera. Come vedi l'evoluzione del centrodestra nella regione Toscana? Ma qui il problema è, come dicevi tu, un chiarimento all'interno, passa attraverso un chiarimento in Forza Italia, perché c'è la presenza di Verdini, che degli uomini di Verdini e degli interessi di Verdini, che è forte, è stata forte e probabilmente è ancora forte, e c'è una parte del partito che non si richiama più, non è più in quel tipo di visione. Poi voglio dire, se Verdini sta uscendo da Forza Italia, a maggior ragione, ci sarà. Accadrà anche qui. Vabbè, insomma, vedremo se questo centrodestra. Lo spazio di Borghi viene dal fatto che ha occupato uno spazio di Forza Italia. Però votato, io penso che o riflettono su Venezia oppure non vanno anche loro da molto lontano. Comunque, grazie. Benissimo. Anche al direttore della Nazione. Grazie. Continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.